Posso fare senza il mio caffè. Poi vorrei prendere un bel grande cannocchiale, guardare dentro me a ciò che mi fa male, senza il rischio di affrontarlo nemmeno un po'. E posso, forse voglio attraversare l'esistenza tutta così. Spero non torni mai il lunedì. E voglio ancora, voglio sempre fare solo quello che mi va. Fare finta che questa sia la realtà. Ma poi ti accorgi che non va. Ogni parte di te grida forte libertà. Come pioggia che nutre la terra arida. Ogni gesto, ogni sguardo pieno di te, non di me, sarà vita. Vattene via. Distanza tra ver tutto o niente, credo non ce ne sia. Che poi ti senti come un'aquila reale, che in gabbia pensa la gallina per non starci male. Io mi sento una Porsche, ma chiavi non ne ho. E ho compreso forse che puoi fare solo quello che mi va. La risposta a quello che non va. E lo sento, voglio, posso fare, dare molto più di quel che do. Dai che ne vale la pena di viverla in realtà. Accogliti per quel che sei. Non c'è spazio per maschere, orgoglio, vanità. Sei una storia iniziata che forse non si studierà, ma mai finirà. Non c'è vento, non c'è giorno, non c'è istante che non sia un dono. Perché la vita è troppo breve per non far spazio alle sorprese che dal cielo pioverà. Persona al mondo che potrà amare con gesti e parole che gli altri possono solo imitare. Se fossi un